24 mattino. Eccoci alle 8 e 20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, parliamo di attualità politica. Sapete, c'è questa cosa sulle liste civiche, tutti folgorati dalle liste civiche. Saluto il sindaco di Bari, Michele Emiliano, del Partito Democratico. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a tutti. Ah, anche lei è un folgorato dalle liste civiche, da un po' di tempo, no, per la verità. Le devo dire, io sono stato eletto sindaco nel 2004 grazie a delle liste civiche, come capita a molti sindaci. Mi sono reso conto che le liste civiche hanno una capacità di mettere in gioco tante persone che non si fidano, non si fiderebbero mai di un partito politico, perché non hanno voglia di giocare con le tessere, non hanno voglia di farsi infilare in quei giochini estenuanti che tolgono via tanto tempo ai problemi concreti da risolvere, e spesso sono semplicemente dei momenti di Senta, ma non è un modo per riciclare facce? Cioè, siccome i partiti adesso basta nominarli, la gente gira lo sguardo, allora che facciamo la lista civica, ma poi le persone sono le stesse? No, adesso io vedo che c'è un grande parlare di liste civiche, però ovviamente noi parliamo di quelle che esistono da sempre, da molti anni. Per esempio la lista che mi sostiene in Consiglio Comunale è una lista che esiste da 10 anni e adesso si sta allargando in tutta la Regione Puglia. Ovviamente io faccio parte anche del Partito Democratico, ma ci sono molti movimenti che il Partito Democratico per statuto in qualche modo coordina, o comunque con i quali interloquisce in modo paritario, perché il PD è il primo partito che si è reso conto che senza queste liste civiche, senza questa partecipazione attiva dei cittadini, la politica sarebbe già morta. Quindi cosa dice la Bersani, che credo vedrà domani, no, la direzione del Partito Democratico? Andrà lei? Non lo so, perché io qui ho molto da fare. Chi fa il sindaco non ha tanto tempo per... Ma come, non va a lei un dirigente del PD? No, io veramente sono membro della direzione nazionale, però definirmi dirigente è una parola grossa. No, membro, non va domani, si riunisce il PD? Guardi, domani c'è un consiglio comunale un po' complicato, quindi non è certo che io riesca ad andarci, stiamo verificando. Cioè sono solo motivi, non c'è screzio. Guardi, la direzione nazionale del partito è fatta di centinaia di persone, non tutti possono intervenire. Il fatto che io domani non ci vada non si accorge nessuno, stia tranquillo. dice così. Vabbè, allora c'è qualcosa sotto, sindaco, che no, non si accorge nessuno. Mi sopravvalutate. No, vabbè. Vabbè, comunque non è detto che lei ci vada, c'è un consiglio comunale importante. Se no, che gli direbbe a Bersani? Che ci vogliono le liste civiche? No, ma con Bersani ne abbiamo parlato. Io penso che i tre partiti del centrosinistra rischiano, se si presentano da soli, senza l'aggiunta di una lista, diciamo, aperta alla società civile, rischiano di non essere in grado di corrispondere alle aspettative del popolo italiano. In questo momento io credo che c'è una grande voglia di votare facce nuove, persone nuove, e soprattutto quelle persone che, ripeto, vogliono misurarsi con la politica, ci starebbero anche ad abbandonare il loro lavoro. Ma mi faccio un nome, che ne so. Sacrificio vero. Perché se è parlato, che ne so, la lista Saviano oppure il partito di Repubblica. Io credo che i giornali debbano rimanere lontanissimi dall'organizzare liste, ma non credo che questo sia l'intento di Repubblica. Insomma, semplicemente ho letto diversi interventi di Eugenio Scalfari, che stimo moltissimo, che stimolavano il centro-sinistra a creare questa quarta gamba della fotografia di Vasto, per dirla in politichese, diciamo così. Sì. Nel senso, l'idea è questa: costruire un gruppo di saggi, di persone autorevoli che ovviamente non si candidano, farli accompagnare dai sindaci dei tre partiti che sono in Italia, che quindi non si devono candidare, che promuovano e selezionino i candidati di persone completamente nuove. Lei, Pisapia e De Magistris sarebbero i tre sindaci che vogliono lanciare questa... Ma io credo che ce ne possono essere molti altri, c'è sicuramente Doria, c'è Orlando, ci sono tante personalità che possono promuovere, organizzare, aprire la strada a chi non ha mai fatto politica, non se la sente di entrare in un partito, perché chi se la sente di entrare in un partito è benvenuto e fa anche bene dal mio punto di vista, ma c'è gente che veramente in questo momento considera i partiti un luogo dove la propria personalità è difficilissima da esprimere, e dunque organizzare un luogo come questo

evidente sin dall'inizio, in tutta sincerità. Ma cioè, tutte le discussioni sulla mafia, subito le manifestazioni. Ma guardi, è un po' come le storie delle cose pelose. I giornali spesso e volentieri tra di loro hanno una concorrenza talmente spietata e violenta che quando un evento può essere colorato in modo tale da rendersi più appetibile o comunque creare maggiore rumore, si scatena un meccanismo che ormai i cittadini devono solo imparare a decodificare. Beh, però non è solo i giornali, cioè ci sono state dichiarazioni, politici, anche manifestazioni, tutta l'Italia in piazza, guardi, contro la mafia. Io che sono il sindaco di Bari, il presidente della regione, noi praticamente non abbiamo detto una parola, o quasi, e credo che abbiamo fatto bene, perché in questi casi questa dinamica che ormai va, insomma, va conosciuta del sistema della comunicazione non va alimentata con chiacchiere quando non si sa di che cosa si parla. Comunque la svolta c'è stata e speriamo che almeno... Siamo almeno... tutti molto, come posso dire, contenti, però è chiaro che come capita in questi casi non c'è nessun dolore che venga attutito dalla scoperta del colpevole. Questo sì. La ringrazio, sindaco, buona giornata ovviamente. Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, del Partito Democratico. Ci fermiamo per la pubblicità e meteo e poi vorrei anche il vostro contributo all'800240024. Allora, è successa ieri le nomine dell'autority della privacy e della GCOM alla Camera. Per qualcuno è stato uno scandalo, la primissima Repubblica, spartizione partitocratica delle nomine secondo il metodo Cencelli, senza guardare i curricula arrivati. Per altri dicono, ma scusate, l'autonomia del Parlamento, la politica è autonoma e legittimamente ha scelto dei propri candidati. Tra poco. 24 mattino. Allora, avevano chiesto qualcuno perfino di mandare i curricula al Parlamento, curricula che sono arrivati, non so se è andata come assicura Di Pietro, cioè che ne hanno fatto carta d'accesso. Sta di fatto che le nomine votate ieri dal Parlamento per rinnovare i membri dell'AGCOM, l'autorità per le comunicazioni, e il garante per la privacy, l'autorità sulla privacy, hanno suscitato un vespaio di polemiche. Chi accusa anche oggi sui giornali, Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere, le solite nomine partitocratiche, spartizione, manuale Cencelli alla mano dei partiti che hanno detto due consiglieri a te, uno a me, tutto deciso nelle segrete stanze dei partiti, e il Parlamento che dice ma scusate, è prerogativa del Parlamento, ci sarà l'autonomia del Parlamento di poter scegliere. E allora di questo vogliamo parlare, le nomine delle authority che hanno fatto scalpore per molti. Lo facciamo con un parlamentare, Alessio Butti, onorevole del Popolo della Libertà. Buongiorno Butti, ben ritrovato. Buongiorno. Saluto anche l'avvocato Guido Scorza, che insegna all'Università di Bologna alla Sapienza, è anche un giornalista, scrive per il Fatto Quotidiano, l'Espresso, è un blogger. Buongiorno avvocato Scorza, e tra l'altro buongiorno, grazie per l'invito. Lei ha seguito e ha portato avanti questa, possiamo dire, la campagna in nome di che cosa? Di quella che poteva essere un'opportunità di trasparenza, di apertura al merito, che è stata sprecata miseramente ieri dai parlamenti, dal Parlamento, la posso tradurre così? Sì, questa era esattamente la nostra richiesta, quindi una richiesta di metodo, non una richiesta da antipolitica, ma di supporto semmai alla politica, che non voleva assolutamente espropriare il Parlamento del proprio diritto dovere di nominare i membri, ma che invitava semplicemente il Parlamento a farlo secondo una procedura non prevista dalla legge, ma non vietata dalla legge, più trasparente e più meritocratica. Quindi cosa avete fatto? Avete chiesto, avete detto, per esempio, esaminate questi curricula professionali che sono arrivati di persone fuori dai partiti, e che cosa non vi è piaciuto di quello che è successo ieri? Che tutto fosse stato deciso già a priori? Ma non ci è piaciuto il fatto che i vincitori, gli eletti, fossero noti prima che deputati e senatori fossero chiamati a votare, non ci è piaciuto il fatto che gli eletti, o quelli che poi ieri sono risultati nominati, siano stati scelti sulla base di, ammesso che ciò sia avvenuto, curricula diversi rispetto a quelli depositati presso la Presidenza della Camera dei Deputati e presso la Presidenza del Senato. Ecco, questo non ci è piaciuto affatto, questo ha avuto il profumo dell'ennesima farsa istituzionale in cui si dà il contentino all'opinione pubblica, si dice avete chiesto candidature trasparenti e la raccolta dei curricula, dopodiché però si procede alla vecchia maniera con segreterie di partito, perché questo è quello che è accaduto in maniera assolutamente bipartisan, se non addirittura tripartisan e trasversale, che scelgono i nomi alla vecchia maniera. Ora non so quale manuale sia stato seguito, però certamente la selezione non è accaduta sulla base dei curricula che aveva raccolto la presidenza della Camera e quella del Senato. Allora, devo dire, si ironizza molto, onorevole Butti, per esempio, il titolo più gettonato è che è stato scelto tra gli altri anche un dermatologo, cioè l'onorevole Soro. Secondo me qua c'è anche un po' di qualunquismo, è laureato in medicina con specializzazione dermatologia, ma credo non abbia fatto mai il dermatologo in vita sua. Comunque, onorevole Butti, l'accusa è questa: il Parlamento ha fatto le solite scelte senza guardare al merito. Certo, è prerogativa scegliere, per carità, da parte del Parlamento, nessuno la voleva togliere, ma sono stati fatti i soliti giochi: due indicati dal PDL, due dal PD, uno dalla Lega, uno dall'UDC e così via. Non cambia nulla, insomma. Ma dunque, lei ha citato forse l'unico esempio che anche noi abbiamo stigmatizzato, cioè non tanto il dermatologo Soro che viene eletto alla privacy in quanto piuttosto il parlamentare tuttora in carica Soro che viene eletto alla privacy. Beh, immagino io si stigmatizzerei, spero, questo spero, più che altro, spero perché si dimetta, no? Spero si dimetterà. Ma io credo di sì, credo che ci sia una incompatibilità, insomma, è abbastanza evidente. Ma ecco, se c'è un fatto da stigmatizzare è questo, cioè noi abbiamo votato in Senato non alla Camera, e abbiamo esplicitamente chiesto che non ci fossero parlamentari attualmente in carica, anche se poi qualcuno ha presentato ovviamente il suo curriculum. Quindi io non sto a stigmatizzare, appunto, come è stato detto, il dermatologo, perché il dermatologo in 20 anni di esperienza amministrativa, politica, legislativa, giuridica può aver maturato delle conoscenze straordinarie. No, ma infatti ci si focalizza sui nomi scelti, ma ecco, sul metodo sul proprio. Metodo, bene. Sul allora, metodo. Io credo che sia una balla clamorosa quella dei nomi noti già da tempo, come è stato scritto, come è stato detto, perché così non è. Vogliamo forse dire che era chiara l'indicazione di Maurizio Decina? Vogliamo forse dire che era chiara l'indicazione di Antonio Preto? Cioè, oppure di Francesco Posteraro? Sto parlando della GCOM, ma potrei parlare anche della privacy. Così non è stato. E anche sulla questione della scelta su curricula diversi, non è così. È inutile che stiamo a raccontarci balle. Sono stati depositati dei curricula e questi sono stati valutati attentamente. Cioè non sono carta d'accesso, come dice Ripeto. Non sono carta d'accesso, bisogna anche smetterla di ragionare in questi termini, bisogna avere un pochino di rispetto anche relativamente alle scelte altrui. Cioè, quindi ci sta dicendo che le persone scelte sono più valide rispetto a quelle che hanno mandato il curriculum. Queste hanno mandato il curriculum. Sì. Scusi, Ho anche questi hanno mandato un curriculum, e quando ci sono 90 curriculum depositati in un ramo del Parlamento e una 50 depositati in un altro, si deve scegliere, perché i posti sono 4. Però sono stati scelti quelli indicati dai partiti, cioè i giornali li avevano già detti prima, il PDL ha detto votate questi, PD votate questi. Non è vero nemmeno questo, se lei va a vedere nei giorni precedenti, a parte i blog, anche i giornali hanno fatto una serie di nomi, addirittura c'erano dei blog che davano per certa l'elezione di soggetti, faccio un nome, un altro parlamentare del PD, del professor Zaccaria. Sì. Allora, Zaccaria è stato eletto? No. Ma hanno fatto le primarie, il PD ha fatto le primarie, questo è straordinario, ha fatto le primarie e poi hanno indicato di votare Decina e Soro, credo. Cioè hanno fatto le primarie all'interno. Cioè, hanno fatto delle scelte e queste scelte vanno anche rispettate. Dopodiché un parlamentare, io ad esempio mi sono guardato alcuni li conoscevo già evidentemente, altri me li sono letti con attenzione, altri me li sono incontrati. Ha capito? Io cioè, me li sono persone incontrati. Persone esterne? Chi è che ha incontrato? Cioè persone che aveva mandato il curriculum? Beh, mi interessava ad esempio conoscere il dottor Preto. Quindi io il dottor Preto l'ho incontrato, mi interessava conoscere, e poi lo dico con chiarezza, non l'ho votata, ma per altri motivi, la dottoressa Iannini. E mi interessava capire. Subito sui giornali ha visto oggi Lady Vespa e la moglie anche di Bruno Vespa. È un fatto di guardi, cronica. E faccio ammenda, perché io non l'ho votata proprio per questo. E ho sbagliato. A lei non l'ha votata? Avrei dovuto guardare il suo curriculum, certo, ma proprio per evitare che vi fossero polemiche anche su questo, ho preferito non votarla. Cioè lei non l'ha votata in, no, quanto, votata. In quanto moglie di Bruno Vespa, per evitare polemiche di qualsiasi genere. Era una scelta inopportuna, era un ottimo curriculum, ma proprio per evitare le polemiche che poi ovviamente naturalmente ci sono state, io non l'ho votata. Anche mi sono stato... assunto questa responsabilità, la legge lo prevede, io dovevo scrivere un nome per la privacy e uno per la GCOM e ho ovviamente libertà di mandato, perché a me nessun presidente di gruppo e nessun partito è venuto a dirmi che cosa dovevo votare. Ha capito? Sì. Però, quelle che si leggono sui giornali sono tutte indiscrezioni. Però si fermi qui, diamo le informazioni sul traffico, poi ripartiamo anche l'avvocato Scorza a capire. Allora, senatore Butti contesta, cioè il metodo, a questa accusa che si leggono anche sui giornali di aver voluto fare una spartizione tra partiti tutta già decisa a tavolino. Tra poco. Allora, 800240024 è il mercatino delle autorità, come titolo oggi Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere, oppure tutto fatto nella scelta autonoma del Parlamento? Vorrei sentire prima Maria Teresa da Torino, ci ha chiamato all'800240024. Maria Teresa, eccoci. Buongiorno. Senta, io dico questo, che adesso qui la palla deve proprio andare ai cittadini. Finché noi non ci rendiamo conto che c'è un conflitto di interessi tra noi e questa oligarchia che è privilegiata, pretorica e inconcludente, non andremo da nessuna parte. Cioè questa cosa qui a me non... Maria Teresa, che vuol dire la palla ai cittadini? I cittadini votano. I cittadini votano. Facendo, adesso stanno già parlando di nuove elezioni. Sì. Io voglio vedere, con un assenteismo di massa veramente dire basta. Non se ne può più. Ci hanno già preso in giro col finanziamento dei partiti, dopo 6 mesi che è stato abolito, hanno con l'eufemismo inventato il rimborso elettorale e abbiamo visto in che mani sono andati. Quindi lei dice, Maria Teresa, la risposta dovrebbe essere questa: i cittadini disertino in massa le prossime elezioni. Esatto, perché non se ne può più, perché questi non hanno nessun pudore. Assolutamente. Va bene. Se ne fregano altamente. Questo io le dico, sinceramente ho 70 anni, ma sono veramente come adesso mai, assolutamente. Abbiamo dovuto avere Monti per levarci così dalle difficoltà e adesso cos'è? Hanno sempre in mano loro il pallino finché non se ne vanno via. Questo io dico. Dire vadano via, ma poi cioè io capisco lo sfogo, guardi che molti la pensano come lei, ma vadano via, disertiamo le urne in massa e poi che succede? Cioè non c'è un Parlamento eletto, oppure pochissimi che votano, o pochi che votano, i pochi che votano eleggono un Parlamento. Capisco lo sfogo di pancia, Maria Teresa, però bisogna costruire anche qualcosa, un'alternativa, se uno lo vuole fare. Sentiamo Alessandro da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, io sono d'accordo in parte con quello che dice la signora, perché comunque non c'è un'alternativa oggi, perché le facce che si presentano oggi sono sempre le stesse e la gente è stanca veramente di vedere sempre le solite facce. Ma lei ha seguito quello che è successo ieri? Ne si è appassionato alle nomine dell'autority? Ha un'idea? Assolutamente. Ma la mia idea a tal proposito è che comunque anche questo dimostra che l'Italia è tutta uguale, perché comunque in tutte le aziende, anche private, soprattutto a gestione padronale, che qua in Italia insomma ce ne sono molte, la meritocrazia è comunque sempre qualcosa che è valorizzata sempre pochissimo, purtroppo. Quindi lei dice il Parlamento specchio dell'Italia, di tutto il sistema produttivo italiano. Sì, nomine e quant'altro, soprattutto in ruoli di direzione manageriali, comunque sono sempre portati avanti da comunque gente che ha conoscenze, che magari non ha, che non abbia le capacità, però che non ha un curriculum, che non ha va bene, non c'è la meritocrazia, questo diciamo lei sottolinea, così in Parlamento come in Italia. Grazie Alessandro. Avvocato Scorza, allora replichi qui il senatore Butti, dice ma basta queste cose, è stato fatto tutto con le regole giuste, abbiamo esaminato anche i curricula, io ho incontrato delle persone, basta pensare al Parlamento come questo emblema del tutto sbagliato e tutto viene fatto non secondo le regole. A me questo dispiace dispiace, perché mentre noi siamo qui evidentemente a mostrare ancora tanto rispetto per quel Parlamento, a dire che ciò che non doveva accadere era proprio che i deputati e i senatori fossero trasformati in burattini delle segreterie di partito, dall'altra parte si nega quella che è l'evidenza. Sabato mattina i giornali riportavano i nomi dei candidati all'Agicom scelti dal PDL nella persona dell'Antonio Martuscello, dell'Antonio Preto, e qualcuno deve riuscire a spiegarmi com'è possibile che in maniera naturale, in maniera spontanea, secondo coscienza, secondo un esame delle competenze, guarda caso un numero così importante di senatori e deputati del PDL su centinaia di possibili nomi, curricula e profili professionali validissimi si siano ritrovati su quegli stessi nomi soltanto ieri. Ma soprattutto qualcuno deve provare a spiegarmi, perché si tratta di superare l'evidenza, com'è possibile se l'altro ieri alle ore 15 e solo alle ore 15 la Presidenza della Camera dei Deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica hanno trasmesso negli intranet della Camera dei Deputati e del Senato i nomi dei curricula, e non potevano farlo prima perché soltanto alle 15 scadeva il termine per la raccolta dei curricula, com'è possibile che i nomi dei soggetti che poi sono stati eletti abbiano anticipato? No, ma su questo effettivamente, senatore Butti, lei ci sta dicendo che nessuno le ha chiesto al suo partito come votare, però i nomi c'erano, cioè il PDL non ce li siamo sognati noi, legge i giornali tanto quanto noi, il PDL diceva questi nomi, il PD questi nomi, Posteraro del Terzo Polo, la Bianchi Clerici in quota Lega alla Privacy, cioè era tutto scritto, voglio dire, e così è successo, questo è un dato di fatto. Guardi, innanzitutto io vorrei che l'avvocato, io non sono il burattino di nessuno, quindi caro avvocato, cerchi di avere un pochino di rispetto. Io ad esempio le ho appena detto, e con me l'hanno fatto in molti, che ho votato in scienza e coscienza, come si suol dire, in assoluta libertà, dopo aver fatto delle valutazioni molto attente. Ho 47 anni, sto da qualche tempo in Parlamento, ho una qualche conoscenza per quanto riguarda le materie, ad esempio competenza dell'AGCOM, so discernere il contenuto di un curriculum rispetto ad un altro, e quindi mi assumo questo tipo di responsabilità. Io penso che si debba guardare anche a ciò che di positivo è accaduto. Ad esempio nessuno ha detto, Milan, che noi abbiamo dimezzato la composizione delle autorità. E questo sì, è un bene. Che abbiamo ridotto notevolmente i costi. Ma a maggior ragione le persone scelte saranno più decisive. Perché sono... Sto dicendo anche un'altra cosa, che la trasparenza dell'operato delle singole autorità, non, tutte, dall'AGCOM alla privacy, all'energia, non è mai stata negata. L'attività dei singoli commissari, anche questo è opportuno che lo capiscano anche i radioascoltatori, è letteralmente radiografata. Sì, però... Quindi qui c'è uno sproloquio, io ho letto stamattina di Grillo, aboliamo la GCOM, Grillo non sa nemmeno di che cosa parla, questo è il problema. Però senatore, siccome un minuto, mi risponda alla domanda, cioè è una coincidenza o incredibile, o è una previsione dei giornali giusta che i nomi indicati prima sono stati quelli eletti? Cioè, Ma scusi, è stato citato un giornale, io potrei citarle Repubblica e il giornale di, o forse il Corriere della Sera, se non ricordo, Repubblica sicuramente di qualche giorno fa, che faceva un elenco, c'erano blog che facevano elenchi in cui davano per certo, io ho fatto anche qualche nome, le ho citato il nome del professor Zaccaria. No, ma ieri i nomi dati ieri erano questi, cioè i nomi che sono usciti erano questi, cioè le indicazioni. Ma perché, le spiego perché i gruppi parlamentari hanno fatto, come lei giustamente ha ricordato, per quanto riguarda il Partito Democratico, ha fatto addirittura una sorta di primaria. È vero, è così, per cui quando sono stati depositati i curricula, i gruppi parlamentari hanno approfondito, hanno conosciuto, e da lì sono cominciate a uscire le indiscrezioni. Come l'ho detto io martedì sera, insieme ad altri colleghi, abbiamo chiesto di incontrare delle persone, li abbiamo incontrate, ci abbiamo ragionato, abbiamo colloquiato per capire. Ha capito? No, ma è chiaro. Allora, fermiamoci qua, magari sul tema ritorneremo. Lei rivendica il fatto che è stato fatto tutto in maniera assolutamente corretta e trasparente. Ringrazio il senatore Butti del Popolo della Libertà e l'avvocato e docente universitario Guido Scorza. Seguiteci su Facebook 24 Mattino, su Twitter @AlinoMilan, e ci troviamo domani. 24 Mattino.